È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Oggi, caro Parenzo, sono leggermente depresso. E no. Allora ti ho mandato in onda una canzone di Putin per farti deprimere ancora di più. Perché canta anche Putin, non solo Berlusconi, anche il suo amico Putin. Senti, ad una convention benefica a San Pietroburgo, Blueberry Hill. In che lingua canta? Beh, in inglese, naturalmente. Senti, è la voce di Vladimir Putin. Oggi in un'intervista alla stampa uno degli amici più cari di Berlusconi, Ennio Doris, dice che Berlusconi non avrebbe mai dovuto candidarsi nel 94, doveva rimanere solamente nel campo dell'imprenditoria e dunque della televisione, e sarebbe diventato come Murdoch. Beh, certo, oggi poi non è di grande augurio questa cosa, sarebbe diventato come Murdoch. Sta toccando a carne il presidente, a carne. Lo stesso Doris, che come tu ben sai, un anno fa disse queste cose di Berlusconi. Don Verzelli ha detto: tu sei un dono di Dio per le persone che hanno la fortuna di avere rapporti con te, per il prossimo, tu sei un dono di Dio. Io sono assolutamente convinto di questo. Beh, se proprio deve fare una previsione, un augurio, Doris, non auguri a Berlusconi di diventare come Murdoch. Oggi poi, scusa. Vista la situazione, sembra in Inghilterra la fine, in Gran Bretagna la fine di un'era, quella di Murdoch, con questa inchiesta pazzesca sullo spionaggio che coinvolge governo e opposizione. Scusami, si dice Murdoch. Hai ragione. Allora, la questione dei ministeri, ancora, che mi appassiona particolarmente per la sua follia, per la sua stravaganza. Sentiamo la Russia. Tu sai che il 23 luglio io sarò lì per a Monza, per vedere io. Questa buffonata, per vedere questa ennesima buffonata. Lo attaccherò io il cartello con sopra. Ma che c'entri tu? Lo devi attaccare Calderoni il cartello. Lo attaccherò io. Comunque la Russia dice: i ministeri rimangono a Roma. E te credo, cioè, non è che c'era bisogno che ce lo dicesse la Russia. Ma non c'era bisogno di spiegarlo. Comunque sentiamo la Russia. I ministeri rimangono. Credo che lo dica anche Calderoli, adesso non è che mi fate entrare in polemica, insomma. Ovviamente i ministeri sono tutti a Roma, poi può darsi che loro gli diano più enfasi di quanto gli abbia dato io, ma nella sostanza. Come avete sentito durante Focus Economia, condotta come al solito in maniera pregevole dal nostro Sebastiano Barisoni, sono bastate alcune frasette di Tremonti e di Berlusconi oggi per riportare la situazione dei mercati diciamo in carreggiata. Poi naturalmente ci sono tanti elementi, non ci sono solamente le dichiarazioni di Tremonti e Berlusconi. La questione allora di Mondadori, c'è una novità. Caro Parenzo, nella giornata di oggi Fininvest pagherà, lo dice, non lo dico io, non lo dici tu, non lo dice la CIR, lo dice Ghedini. Sentiamo la voce di Ghedini. Se ci fosse una situazione di obiettività, il giudice avrebbe dovuto e potuto sospendere, potrebbe farlo, ma certamente non lo faranno, quindi intanto Fininvest pagherà e poi speriamo che riabbiano indietro i denari che pagano. E poi Marina Berlusconi, l'arrabbiatura non passa. Questa è di ieri, Marina Berlusconi, l'arrabbiatura non passa. E te credo, 560 milioni. Sono soldi, amico mio, sono soldi! Festeggiare, bisogna andare avanti, ma l'arrabbiatura non passa perché questa cosa è troppo grave. I'll bring my own. I'll give it to you. Bene, 800 24 00 24. Questa è la zanzara. Questa è la zanzara. E c'è anche da farvi ascoltare, prima di un ospite, il signorini. Alfonso. La botta è grossa, 560 milioni di euro. Noi scherziamo, sempre 560 milioni di euro sono, per carità, per un'azienda è una, beh, certo, è una roba seria. È comunque una bella botta all'interno, una batosta. E beh, insomma, credo che non si trovino proprio per la strada 560 milioni di euro, quindi la botta è grossa. Sempre la voce di Putin, ti piace la voce di Putin? Per nulla. Per nulla, eh? Per nulla. Signora Mussolini? Come va? Bene, come sta? Bene, ditemi. Le piace la voce di Putin che canta? Assai, eh? Mi sembra che potrebbe essere addirittura meglio di Berlusconi, eh? Ah, sì, è una bella lotta. Blueberry Hill, cantata da Vladimir Putin. Buonasera, onorevole Mussolini. Buonasera, allora, buonasera. Le dico subito una cosa, ma qua crolla tutto, quindi. Qui crolla tutto, però oggi la situazione è un po' più tranquilla, diciamo, no? La signora Marina Berlusconi le piace? Come carattere, diciamo. Pronto? Io non vi sento. Non ci sente, non ci ecco, sente. Ecco, adesso vi sento. Ah, oh, meno male. Dove si trova? Sì, mi trovo a Roma, però in una zona poco coperta, perché noi paghiamo il cellulare, però poi non c'è il campo. Allora, vabbè, ma siamo alle solite, insomma. Ecco. Dramma Mussolini. Dramma copertura del cellulare di Alessandra Mussolini. No, questa, perché la cosa è... Sì. Questa reazione della signora Marina Berlusconi di fronte alla... è comprensibile. Come la lupa che difende i lupacchiottoni. Ah beh, quindi questo è interessante, che, cioè? Che Marina, i lupacchiottoni sono i soldi, chiaramente. Ah, i lupacchiottoni sono i soldi, lei dice. Non c'è nulla di parente, nulla di sentimentale. No, al di là di tutto ha detto una cosa, però adesso... L'esproprio, è un esproprio o no? È un esproprio. I lupacchiottoni sono i dobloni, però se noi proprio la vogliamo dire tutta, sì, 560 milioni di euro sono tanti. Significa che tu una persona la vuoi proprio... uccidere economicamente, cioè i giudici vogliono uccidere economicamente Berlusconi, secondo lei è una sentenza politica, come ha detto? Beh, sempre è la una suddetta sentenza, questa è una sentenza molto pesante, pesano questi soldi, non è che è una detto... roba di vent'anni fa, però onorevole Mussolini, è una storia di vent'anni fa, però io la trovo un po' esagerata, però comunque vabbè, comunque insomma, tanto quello dice che c'è, esagerata, ma è una... dice che i soldi ci sono, no? Ci sono. Non lo so. Gli darete una mano voi, no? Come no? Questo è come quando uno dice sono ricco, ma tu 50 euro nel portafoglio ce li hai? Che ne so, Berlusconi. Molti non ce l'hanno. Molti non ce l'hanno. Dice i ricchi fanno, dicono così e poi non c'hanno una lira, dice, nel portafoglio. Ho capito? Poi bisogna vedere se è vero. Ho capito, però. Parla di qualcuno in particolare? No, in generale. Perché uno dice, e poi magari vanno al bar e fanno pagare l'altro perché non hanno. I veri ricchi girano tutti al di là portafoglio. Ma lei ha mai visto Berlusconi che tira fuori 20 euro dal portafoglio? No, Berlusconi tira fuori? Berlusconi, cioè, Berlusconi ha proprio il portafoglio, è generoso e lo sappiamo tutti. Cioè il portafoglio ce l'ha? Adesso non so, cioè chi è che tira materialmente, non è che ce l'ha lui i soldi. Lei io ha mai visto? Ricordo che ero molto invidiosa e gelosa, sì? Perché quando stavo nel gruppo d'Alleanza Nazionale, quando è diventata N, io e la Poli Bortone andammo come due profughe vicino alla camera in un negozietto a comprare una collanina, un oggettino d'argento oppure placcato, secondo me ero anche una mezza patacca. Un tarocco. E perché dovevamo fare il regalino per Natale. Sì. A Natale, e invece Berlusconi aveva regalato i gioielli, proprio dei bracciali, degli anelli, a tutte le parlamentari. Lei dice la differenza è questa, voi scegliete le cose mezze tarocche e Berlusconi invece punta al sicuro. Vabbè, ho capito, questo è chiaro. Però voglio dire, lei ha mai visto Berlusconi tirare fuori dal portafoglio una 20 euro, 50 euro? Cioè materialmente li maneggia i soldi oppure come tutti gli straricchi non li vede nemmeno? No, secondo me lui li vede, perché lui non è uno straricco che è nato straricco, lui è una persona... i soldi se li è guadagnati, ma se li è sudati, quindi non è come il figlio dello straricco che non sa manco come gli sono piovuti in mano e depaupera, capito? Spende, spande, no, lui lo sa. Senta, ma dall'ultima volta che ci siamo sentiti sono successe un sacco di cose, feste, matrimoni, separazioni, separazioni, cara Mussolini. Ora non vogliamo parlare qui. Però il caso Carfagna, lei sul caso Carfagna ha già parlato, però c'è il caso Bocchino, cioè è divenuta una separazione. Quello era una cosa ovvia che sapevamo tutti, era ovvio, no? Cioè era scontata la separazione, dice lei, no? Secondo me, penso. Che ne so, lo dice lei. Non lo so, però non è, guarda, di fronte... Non è una sorpresa, dice lei. Non è una sorpresa, ma non è neanche più una notizia, perché di fronte a tutte queste cose che stanno succedendo, l'economia, l'attacco, credo che la separazione di Bocchino sia proprio una non notizia. No, ma quelle succedono indipendentemente dal matrimonio di Mezza Roma con la Carfagna, no? Indipendentemente da quello c'è la speculazione. Ma la colpa di chi è? La separazione di chi è? Di chi è la colpa, scusi, della signora Carfagna? Ma chi se ne interessa? L'unica cosa, il problema che ha la nuova coppia di sposi sono i soffitti che devono essere altissimi. Cioè? Mi scusi? No. Delle corna, ma che dice? No, vabbè, signor Mussolini. Ma scusi un attimo, però chi? I soffitti. Perché lei dice che i soffitti devono essere per dare aria? Ho capito, però da parte di tutte e due oppure di una sola persona? Ma non lo so, il soffitto, però loro hanno detto noi andiamo in albergo a fare il viaggio, però il soffitto deve essere superiore ai 3 metri e 50. Ho capito, se ma no per, non entrano per tutte, per tutte e due o solamente per uno? La coppia vuole agio, vuole aria. Vuole aria. Anche nelle foto loro hanno detto non possiamo fare le foto tagliate. E sopra si deve alzare, capito? Non è un buon inizio di matrimonio così, però mi scusi. Volete da me? E poi il soffitto mano a mano si abbasserà. Lei dice. Per ora è alto. Di solito è il contrario. Cioè, mano a mano che passano gli anni. Qui si va verso i soffitti alti. Molto, appunto, dico. Infatti, non so se si sono sposati in un castello, la cosa era alta. Alta, molto. Non i cassettoni, vetrate. Capito? Cosa di una cattiveria. È una cosa gravissima. No, è normale, i soffitti sono belli alti, danno agio. È meglio, lei dice, è meglio in generale, è meglio avere soffitti alti che bassi. Tra le altre cose, tu sai che quando un soffitto di una casa è bello alto è un valore, e quello è un valore. Certo. Però anche di alti o bassi, la casa sua sono alti o bassi. Le coppie famose sono capricciose, no? Come quelle che vogliono 60 litri di Coca-Cola, le cose così, queste nuove star, e loro vogliono i soffitti alti, se no non possono accedere Traffico, torniamo subito. Un attimo, arrivederci. No, si fermi, che aspetti, ci sono ancora 10 minuti, traffico. I found my thrill on Blueberry Hill. David, stai ancora ridendo? Cosa, però scusi, onorevole Mussolini, non è che possiamo iniziare la trasmissione in questo modo. Lei non ci fa continuare così. Cioè, no, adesso parliamo di cose serie. Sì, beh, ho capito, parliamo di cose non serie. Non che le altre non lo siano, No, però appunto. un po' più serie. Però adesso voglio dire, cerchiamo di andare verso cose ragionevoli. Io voglio capire una cosa. C'è stata una separazione, no? Una separazione. Ancora, scusate, ma voi non mi potete chiamare per queste cose. C'è stata una separazione tra il signor Bocchino. Ma chi se ne importa? Perché non chiamate loro? Hanno fatto un comunicato, è diventata una cosa pubblica. È così, per carità, con grande rispetto poi della famiglia, dei figli. Ma loro vivono a Cervialto. Dove vivono? Capito? Scusi? A Cervialto. Ma chi, la famiglia Bocchino? Non lo so, qualcuno sicuramente. O l'altra. A Cervialto di sopra o Cervialto di sotto? Cioè dice lei. Cervialto. Quindi si sono trasferiti lì, pare, no? Pare, sì. Dovrà fare avanti e dietro, eccetera. Invece parliamo di una cosa più seria. No, ma scusi, ma quella io foto li vorrei lei... trasferire in misteri. ai ministeri. Così non ci sono più le manifestazioni a Roma. Sarebbe una cosa meravigliosa se le ciucciano tutti i padani. Questa non è male, però, come cosa. Trasferiamo tutti i ministeri. Pensiamoci, così certo. Manifestazioni di massa a Monza, certo, intorno alla Villa Reale, a Milano, però non so poi dove. Non ce li devono più ridare. Questo io dico. Però dica qualcosa a questo Bossi che continua a fare il dito medio di fronte alle canzoni sul tricolore, a questi leghisti che sparlano di Napoli dalla mattina alla sera dicendo che è uno schifo. Cioè, dica qualcosa. Ma sono suoi alleati, sono suoi alleati. So tutto, a parte le cose che sono successe, le vicende a Napoli, una città meravigliosa che neanche i rifiuti possono ammazzare. Vabbè, questo siamo tutti d'accordo. Ecco, e quindi Bossi col dito medio è una cosa che lui fa ormai come un caratterista. Caratterista, capito? Non è una cosa in cui lui non crede, lui lo fa così per farlo. Lei ormai è si fa così, è diventato come un una macchietta, una macchietta, lui fa questo dito medio oppure fa le canzoni come quell'altro Salvini con l'orecchino che fa queste cose e lo fa perché ormai in Salvini con l'orecchino cosa... c'entra l'orecchino l'orecchino Salvini, è un'altra cosa, scusa, non so, mi colpisce cioè si caratterizzano per queste cose un po' estetiche, e no? Poi si viene colpito da quello che vuole, cioè anche Calderoli vuole andare con lanciafiamme a Napoli armato, capito? Ha capito, lanciafiamme, poi bisogna vedere contro chi. Che ne so, Perché poi quando si parla delle regioni virtuose, grazie, con tutto e quanto quello che hanno loro sono virtuosi, però devono essere virtuosi anche i comuni che non hanno risorse e che riescono a tirare avanti la carretta. È facile parlare dei comuni del nord. Senta, ma Marina Berlusconi le piace come carattere? Tosta, a me piace molto. Potrebbe essere un candidato serio per il centrodestra? No, lei non credo, perché lei sa fare bene il suo lavoro, è una imprenditrice, il padre ha fatto la stessa cosa, però dato che il padre è inciso in modo molto forte, nella vita uno può fare tutto, certo. Beh, certo. Però non però credo. Ha le palle o no? Mi sembra di sì, no? C'ha due ovaie che roteano dalla mattina alla sera. Due ovaie. Le palle no, le ovaie. Ma voi perché dovete sempre massificare? Vabbè, una cosa è un senso figurato. Le ovaie che girano. Le ovaie che girano, ha due ovaie così. Così, a due ovaie così. Questo sì. Non è bella come espressione, però va bene. Ma come no? Non è bella perché non vi piace a voi, a me piace. Senta, però lei è nello stesso partito di un signore che si chiama Milanese, il quale sempre secondo le accuse, si sarebbe leggermente arricchito sfruttando la sua posizione di parlamentare, eccetera, eccetera. Lei darebbe subito... dimmi, che c'è? Scusami, ecco qua, c'è un'emergenza, un breaking news. È un'emergenza assoluta. Che è successo? Vuole che ti saluti, sono Mentana. Oh, signor Mentana, buonasera, come va? Come va? Perché Parenzo impone queste cose? Cioè, ogni tanto passa la gente mi ha placcato proprio. Vuole salutare la signora? Vuole salutare la signora Mussolini? Ah, certo, con molto piacere, l'onorevole Mussolini. L'onorevole Mussolini, che ha appena detto una cosa un po' forte sul matrimonio della signora Carfagna. Oh, mamma mia, non ho detto quello queste che detto sono cose, queste sono cose tra esponenti di rilievo e che non ci interessano della maggioranza. Esponenti. Non ci interessano, va bene. No, però ha detto una cosa un po' forte che se ne pentirà, signora Mussolini, di quello che ha detto. Perché qui... Io non l'ho detto proprio. Come no. Gli altri sono un valore aggiunto. Ho capito, lei ha detto... Come il marmo. Lei no? Ha detto che la nuova coppia formata dal signor Mezza Roma e dalla signora Carfagna pretende soffitti alti. Ora, noi non siamo stupidi, abbiamo capito tutti la metafora qual è. Insomma, la metafora qual è? Cioè, c'è qualcuno che ha delle corna molto dirompenti, molto alte, molto, molto rigogliose, come ma dire. No, allora posso lasciarvi a questa augusta discussione. Mentre lei sa, signor Mentana, che mentre i mercati comunque traballano, noi ci occupiamo di queste cose un po' meno. Il mercato del sole vedete è una speranza di toro comunque, no? Come nella borsa, no? Allora io grazie, volentieri da Mentana e me ne vado. Dove Mentana mi fa facciamo queste figure. Dove sta andando? Sta andando a fare l'11%, amico. No, Mentana, che c'è? Te sei fissato con Mentana, sia Mussolini che è nostra ospite, non Mentana che è stato placcato al volo da te, costretto a venire qua. Una cosa pazzesca. Io vorrei capire, signora Mussolini, diciamo una parola definitiva, poi questa storia la chiudiamo per sempre. Non mi chiamate più per parlare di tutto. Ecco, l'ultima volta, però voglio sapere da lei una risposta definitiva su questo. La separazione del signor Bocchino, ci ucciderà Bocchino per questa conversazione, ma chi se ne frega. È colpa della signora Carfagna, sì o no? A me stesso. No, vabbè, pare, assolutamente no. Vista dall'esterno, lei che è ormai diventata una sorta di esegeta di questa vicenda. No, di fotoreporter, anche con tanto di foto. Non lo so, mi auguro di no. Mi auguro di no, vabbè. Non le strappiamo nulla. Bene? Grazie, signora. Grazie. Grazie a voi, cari. Grazie, signora Mussolini. Ciao, cara, arrivederci. Vabbè, ci sentiamo col giornale radio con notizie molto più serie rispetto a quelle con cui abbiamo iniziato. E dunque ci sentiamo alle 19:15 noi con la Zanzara. Ciao David, a dopo, eh. Non fare troppi danni nel frattempo. Siamo qui 1918 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3 di questa sera. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Bellinguer. Apertura drammatica a Piazza Affari, poi il recupero dopo l'annuncio di Tremonti da Bruxelles, vado a chiudere il bilancio, presto vertice paesi euro. Berlusconi rompe il silenzio, la situazione è difficile, bisogna essere uniti, la crisi chiede un iter più rapido della manovra e misure più forti. Giovedì il Senato, poi il passaggio alla Camera, entro la fine della settimana il varo della manovra, l'apprezzamento di Napolitano. Tremonti incontra l'opposizione, PD e Italia dei Valori, faremo la nostra parte, nessun ostruzionismo, Bersani, Berlusconi crea sfiducia. Lodo Mondadori, Ghedini annuncia la Fininvest pagherà i 560 milioni alla CIRD di De Benedetti, non ci saranno leggi ad hoc, dice il legale. Ucciso da una bomba, il caporalmaggiore Roberto Marchini era il suo ultimo giorno di missione, agguato mortale al fratello del premier Karzai. Ad una manifestazione della Lega, Bossi mostra il dito medio ad un cantante che inneggia al tricolore e lui querela il senatore. Che cantano, chi, chi, chi, chi. Troppe galline rispondono, co, co, co, co, co. E se i piccioni spariscono, co, co, co, co, co. Tutte le papere piangono. Non è una notizia di oggi, però il signor Pippo Franco, che avete riconosciuto sicuramente dalla voce, è stato intervistato in uno dei numeri della Responsabilità, giornale edito dal movimento guidato da Mimmo Scilipoti. L'intervista ha come oggetto l'olismo. L'uomo olistico è una visione, diventa quello che sei. Pippo Franco, grande attore comico e satirico, la domanda che si chiederanno molti dei nostri lettori, scrive un intervistatore del giro di Scilipoti. Come nasce il vostro interesse, vostro con la V maiuscola, per il mondo olistico? Me ne occupo da 30 anni, una passione, un interesse come tante altre cose, fra le quali anche questa, forse una delle principali. Che cos'è per voi, sempre con la V maiuscola, l'uomo olistico? L'uomo olistico si può tradurre in una visione, diventa quello che sei. L'uomo tende a vivere la vita di un altro e vivere in funzione di quello che gli altri pensano di lui, tende ad esprimere il giudizio a partire sul giudizio su se stesso e tende a non dare spazio all'essenza con cui è nato e che solitamente viene micidializzata dalle conversazioni, dagli ambienti sociali e da una serie di circostanze a lui estranee. Così parla Pippo Franco. Bene, la Santanchè dice che non difende Tremonti sulla casa. Che il ministro Tremonti abbia commesso una leggerezza in tal senso, io non sono qua a difendere questa leggerezza, perché lo trovo sbagliato, nel senso che non è, come dire, non è fair, non è giusto. Il ministro Tremonti avrebbe dovuto dormire sicuramente in un'altra casa. È sempre la Santanchè che è tornata a parlare dopo qualche giorno. Rimetterei la norma Mediaset nella manovra. E mi auguro non solo che si rimetta nella manovra, perché serve a moltissimi, ma soprattutto che venga spiegata. L'errore fondamentale che è stato fatto è quello di non parlarne. Se avessi dovuto decidere io, avrei fatto una conferenza stampa specifica su questa questione. se i piccioni spariscono. Poi oggi, come sapete, Ghedini ha detto che la Fininvest pagherà. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio. Bene, bene, 800 24 00 24, direi di andare a qualche ascoltatore. Michele da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Mi piaceva sentire il parere di qualche economista, perché sono convinto che... Scusi, quale economista? Com'è? Quale economista, scusi? Qualcuno, no? Qualsiasi, uno che sappia fare i conti bene. Non è che tutti gli economisti sono uguali, eh? Beh, lo so. Comunque, vabbè, le piacerebbe sapere il parere di qualcuno? Diciamo un imparziale, dai, tanto per... Va bene, insomma. E mi piacerebbe che uno facesse i conti, perché adesso, pagando la Fininvest al signor De Benedetti, questi soldi praticamente andranno in perdita alla Fininvest. La Fininvest alla fine non li pagherà dalle tasse. Quindi alla fine chi avrà pagato una parte almeno sarà sempre il popolo italiano. Scusi, lei sta mettendo in discussione i meccanismi di detrazione fiscale, eccetera, eccetera, non ho capito. Praticamente sì. Ho capito, però se la prenda con questi meccanismi, insomma, se bisogna prendersela con qualcuno. Non me la prendo con nessuno, mi piacerebbe semplicemente che qualcuno lo facesse emergere, giusto per capire quanto paga effettivamente Fininvest e quanto paga il popolo italiano. Sì, ma che c'entra il popolo italiano? Questo fa parte di delle detrazioni, quando queste detrazioni sono detrazioni di legge. Va bene, grazie. Carlo da Venezia, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, se c'è ancora, perché non lo so. Adesso arriva. Senti, io volevo fare semplicemente un intervento riguardo gli articoli che sono apparsi sulle dichiarazioni della signorina Berlusconi, che diceva ieri su Corriere della Sera che loro hanno avuto un comportamento sempre corretto come azienda, e perciò è completamente... non riesce a capire assolutamente questa sentenza, e quella di oggi che è ancora incazzata, diciamo così. No, allora precisiamo, Marina Berlusconi ha detto che la sentenza è una sentenza politica, ha detto qualcosa in più rispetto a quello che dice lei, non è che ha detto che non capisce, è una sentenza politica, una manovra a tenaglia contro mio padre, non dobbiamo nemmeno un euro, eccetera, eccetera. Vabbè, ma è la vecchia questione, cosa vuole che dica Marina Berlusconi? Sì, siamo dei corruttori, abbiamo corrotto un giudice, mio padre ha corrotto un giudice, eccetera. Sì. Esatto, più che altro anche perché... Si difende come si difenderebbe qualsiasi persona nei confronti di una sentenza che sente ingiusta, punto. Cioè, cosa vuole che le dica? Non è che se uno è condannato deve per forza ammettere di essere colpevole, cioè non solo è condannato, ma lei vuole pure che una persona ammetta di essere colpevole. Abbia pazienza, uno risponde come deve rispondere. No, può non essere d'accordo, anch'io non sono d'accordo, ma non faccio parte di quell'azienda, non l'ho costruita io, non sono coinvolto nella vicenda. Probabilmente se fossi coinvolto e mi sentissi innocente direi la stessa cosa, è molto semplice, non vedo cosa ci sia di strano, cioè non... Beh, una sentenza è passata in giudicato. Ho capito, ma non è che le sentenze passate in giudicato necessariamente sono sentenze nei confronti delle quali le persone condannate dicono sì, vabbè, siccome è passato in giudicato allora sono colpevole. No, uno si può sentire innocente anche di fronte a una sentenza passata in giudicato, o no? Certo, anche condannato a morte con quello che è stato preso col coltello piantato si chiama sempre innocente. No, forse non ha capito bene quello che voglio dire. Io non sto dando patenti di innocenza a nessuno. Sto dicendo semplicemente che una persona che si sente innocente non è che di fronte a una sentenza di condanna dice mi arrendo. Continua a pensare la propria innocenza. Esatto, punto. Molto semplice. D'altra parte non è che non vogliono pagare, Non mi sembra di aver sentito che non si vuole pagare. Oggi Ghedini ha detto Fininvest pagherà. No, ieri, certamente ieri ci hanno provato a non pagare. Una vecchia intervista. Ah, mandiamo in onda, con un bel sottofondo musicale, naturalmente. Un bel sottofondo musicale in cui ci saranno due voci che sentirete, due voci molto simili come evocazione per quello che dicono, in realtà molto distanti. Amore, amore mio, mon amour, o sai, non ti aspettavo proprio più. Don Verzelli ha detto, tu sei un dono di Dio, per le persone che hanno la fortuna di avere rapporti con te, per il prossimo, tu sei un dono di Dio. Io sono assolutamente convinto di questo. Teneva voglia pazzi te vasa. È difficile per me vedere di sé. Ti posso dire una cosa, lui vive il suo lavoro, prima di costruttore, poi delle televisioni, adesso politico, come un missionario. per cui non c'è spazio o ce n'è molto poco per altra cosa. E questo era un amico molto caro a Berlusconi, Ennio Doris, l'anno scorso. Qualche anno fa, invece, come avete già sentito ieri e per gentile concessione del nostro amico Dav, beh, insomma, abbiamo sentito Carlo De Benedetti, 1991. Non è che usasse parole, certo, quelle di Doris erano, come dire, poetiche nei confronti del Premier, queste erano invece di un imprenditore avversario e nello stesso tempo rispettoso. 1991 mi sembra che era, il mese, maggio. È una persona che certamente ha fatto bene in Italia e ha dato un notevole impulso all'immagine dell'imprenditoria italiana all'estero. Certamente Berlusconi ha tanti programmi davanti a lui, il mio augurio è che gli riescano tutti. Invece amore grande perché... Che messaggio manda Berlusconi alla fine di questa lunga vicenda? Tanti cari, affettuosi auguri, ma veramente, per successo nelle sue tante imprese. Tanti cari, affettuosi auguri anche per lei, signor, non mi ricordo chi, con chi stavo parlando, con signor Carlo, tanti cari, affettuosi auguri, ha sentito queste voci in successione, due voci molto simili, eppure così diverse, per estrazione, per formazione, per competenze, sì, anche per mestiere, per amicizie. Secondo me Di Benedetti bisognava vedere anche la faccia, però. Beh, guardi, io l'ho vista ieri sera, l'ho vista molto bene, una faccia molto soddisfatta all'epoca, però non vuol dire niente, noi giochiamo con queste cose, poi le cose vanno avanti, gli imprenditori da amici e amici, insomma, da avversari, no, che poi si erano messi d'accordo diventano poi improvvisamente nemici per tanti motivi. Anche perché non penso che in quel periodo De Benedetti fosse ancora a conoscenza di quello che era... del tentativo di corruzione da parte dell'avvocato. No, certamente, però dunque, di conseguenza uno può avere anche un'opinione. Sì, ma non mi sembrava della conclusione. Non mi sembrava essere stato costretto in quel caso a firmare quel lodo. Comunque questo è un discorso che ormai non possiamo più fare. La no, borsa, no. Grazie, signor Carlo. Grazie. Siamo qui, 800 24 00 24. Che stavi facendo, Parenzo? Scusami. È successa una cosa gravissima, gravissima. Che è successo? Cosa è successo? C'è poco da ridere, Una cosa di una gravità inaudita. Vabbè, dopo mi spiegherai, cioè una cosa di interesse pubblico. No, in tribunale se ne parlerà in tribunale se ne parlerà. Allora, leggo sul sito Piovono Rane del nostro amico Alessandro Giglioli, che ho incontrato l'anno scorso insieme alla figlia. Beh, questa è una notizia privata, però posso anche darla, insomma, a passeggiare intorno alla stazione. Siamo andati anche a bere un caffè, però vabbè, questo... Ma questo perché deve essere di interesse pubblico? No, effettivamente. Però sai com'è la zanzara, no? Si interessa anche di queste cose. Come no? Allora, signor Giglioli scrive: l'altro giorno, andando alla SMA di Via dei Laterani, ho visto a Roma, su un triste palazzo bianco, è comparsa un'enorme scritta in similoro: ministro del turismo. Un palazzo bianco. Sì, così no. Come la vedete, mica ministero, proprio ministro. Boh, scrive Giglioli. Ho pensato che se la fossero dimenticata. La E, cioè ministero. Anche la segnaletica istituzionale ha i suoi refusi, invece no. Il punto è che il Ministero del Turismo non esiste. È stato abrogato, come sappiamo, con un referendum nel 93, e da allora è rimasto un banale dipartimento della Presidenza del Consiglio. Poi però nel 2009 Berlusconi ha fatto la brambilla ministro senza portafoglio con delega al turismo, insomma un ministero senza ministero, però con lo stipendio da ministro, e sul suo sito personale Michela Vittoria può mettere che è ministro. Il sito del ministero invece non c'è. Non esistendo il ministero non può esistere neanche il sito. In compenso c'è il cartellone lucidissimo in similoro che indica ai passanti una notizia fondamentale. Lì dentro non c'è nessun ministero, però c'è un ministro. Un'enorme scritta per una sola persona. L'ego spinto alla sua massima potenza, del tutto inutilmente. Ma ti assicuro che nella foto che vedo c'è scritto ministro del turismo. Non c'è un ministero, perché non si potrebbe scrivere, almeno credo. Ma ministro del turismo, in similoro. Signora Brambilla, di qualcosa su questa vicenda. Prego. Caro ministro Brambilla. Un ministro che bacia i leoni, lo vogliamo ricordare? Le tigri. Che ama tigri e leoni, bacia, sì. Tigri e leoni, che si occupa degli animali, che abbraccia le piante, questo sarebbe il turismo del nostro paese, i leoni, in Italia i leoni stanno nella savana, caro ministro. Va bene, va bene. Luigi da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera. Io sarò al caldo, ma ho una gran confusione in questi giorni. Anche noi siamo confusi, anche un po' depressi oggi, io e Parenzo, però va bene lo stesso. No, vi sentivo infatti un poco spenti. Allora no, ma spenti, adesso spenti. No, spenti proprio, no. Lo dice a qualcun altro, spenti, abbia pazienza. Io mi stavo leggendo il responsabilità, stavo compulsando il quotidiano, il periodico, no, quotidiano mi sembra troppo, l'organo ufficiale del Movimento della Responsabilità Nazionale, caro Parenzo, che ti manderò via mail. Il grande esperto italiano. La responsabilità ha come sottotitolo Insieme al popolo. C'è in copertina naturalmente il libro di Scilipoti, creare un dipartimento interministeriale per le medicine non convenzionali con tutto il programma, usura bancaria, eccetera. Oggi c'è una notizia fondamentale, molti ci dicono di non dare più spazio a Scilipoti perché non è il caso, basta con Scilipoti. Sì, ma finiremo questa vicenda, la chiuderemo questa vicenda, non vi preoccupate. Innanzitutto per responsabilità istituzionale, in questi giorni abbiamo rimandato la rubrica, la mitica rubrica Scilipoti racconta Scilipoti, ha data da destinarsi, ma insomma arriverà. Però il signor Scilipoti oggi ha mandato in rete questa dichiarazione: gli speculatori che calcolano di fare affari a danno della borsa italiana e del debito pubblico potrebbero essere individuati nell'ambito del sistema bancario nazionale, che mal digerisce le battaglie che il Movimento di Responsabilità Nazionale sta attivando. No. Cioè, sì, ti giuro, la colpa è delle banche italiane, che hanno paura delle battaglie dei responsabili. Ma è una visione lucida quella di Scilipoti, è chiaro. A Milano sono tutti lì a telefonarsi, a dire: oh, il presidente di Intesa San Paolo, di Unicredit, Monte dei Paschi, il dottor Mussari, presidente dell'ABI, io lo vedo, che dicevo: ma cosa ha fatto oggi Scilipoti? Mannaggia, bisogna dargli una lezione a Scilipoti, dai che affondiamo la borsa. È un genio questo Scilipoti, te ne rendi conto? Che tu si immagini il dottor Mussari, brava persona, presidente dell'ABI, Monte dei Paschi di Siena, che telefona al presidente di Intesa San Paolo e gli dice: oh, hai visto che ha fatto Scilipoti? Affondiamo la borsa, dai. Luigi, ma... da Vicenza. Allora, io pensavo che fossimo alla frutta dopo aver ascoltato Pippo Franco, però qua andiamo oltre, onestamente. Pippo Franco era più serio con l'olismo. Allora? Niente, il mio intervento era su Ghedini, nel senso che non ci capisco più nulla, nel senso che oggi ha dichiarato lui: paghiamo, cioè proprio in prima persona. Ma la Fininvest pagherà, non ha detto sì. Paghiamo, la Fininvest pagherà. No. Stavo solo dicendo questo, che notavo. Beh, no, è un po' diverso, abbia pazienza. No, cioè, non è che paga Ghedini, paga qualcun altro, paghiamo, insomma, non è così. Mi spiego, è un avvocato di Berlusconi, ovviamente. Mi spiego, quella settimana scorsa, quando c'era quella famosa norma salva Fininvest all'interno della manovra, bla bla bla, lui si è tirato fuori e ha detto: no, io mi occupo di penale, di civile non me ne occupo, per cui non so assolutamente nulla, non voglio dire una parola. Appena uscita la sentenza, è stato il primo a dichiarare che appunto la sentenza era assolutamente ingiusta, vinceremo in Cassazione, bla bla bla. Oggi è lui a dire: Fininvest pagherà, e quindi non capisco come mai questa, appunto. Io non capisco perché lei si stupisce. Cioè, Fininvest, essendo l'avvocato di Berlusconi, anche per quello che riguarda la Fininvest. Ma di penale, però. Sì, vabbè, ho capito, ma adesso non stia là a fare il coso, il puntiglioso. Si occupa di penale o di civile, no. Si occuperà di quello che si vuole occupare. Ha detto che Fininvest pagherà, appunto. Cioè, lo so. Stavo appunto facendo notare il fatto che lui fa il puntiglioso quando gli serve. Poi, nel momento in cui c'è da dichiarare, c'è da dire, siccome Berlusconi su questa faccenda ancora ha taciuto per il momento, ha dichiarato lui. L'ultima cosa che volevo dirvi a quel cartesiano di Parenzo, io ho una teoria. Secondo me, siccome non lo ospitate più, non è che è il divino Telma che si è trasformato in Scilipoti. No, ma guardi che il divino Telma è stato, essendo proprietà di un'altra trasmissione radiofonica, ospitato da noi due volte in tutto. Non è che non lo ospitiamo più. In queste due volte ha allegramente litigato con il signor Parenzo. Appunto perché questi litigi li collegavo, non vorrei che il divino Telma si fosse trasformato in Scilipoti per poter trasmettere anche da Radio 24. No, sì. Portate quindi rispetto per Scilipoti. Comunque Parenzo, sei un grande davvero. Va bene. Un abbraccio Maria forte. Grazia da Padova, Maria Grazia da Padova, buonasera. Allora, anch'io invoco Parenzo, gli dico di starmi a fianco perché voglio dire una cosetta. Sì. Allora, io ieri ho ascoltato, poi non ho potuto telefonare, ho ascoltato due telefonate, fra l'altro un mio concittadino, anche un padovano, che si sfogava su questo governo. E così venne fuori il discorso, mi sembra da lei, dottor Cruciani, del fatto che sia il governo e questo deve rimanere, soltanto le elezioni, eccetera. Allora, intanto io credo che sia diritto di un ascoltatore che si mette su Radio 24 dove la passione si sente e credo che sia possibile appunto esprimere concetti anche magari detti in maniera molto semplice, ma che sono la stregua di Nessuno, guardi, questa trasmissione è fatta per esprimere anche concetti molto basici, molto semplici che vengono dallo stomaco. Dunque, grazie, di che sta parlando? Sta parlando di cose che non esistono. Sto dicendo appunto che proprio erano concetti detti molto semplicemente, ma erano gli stessi che ho sentito a Focus Economia, nel senso che sia il dottor De Aglio sia il dottor Tamburi parlavano di un governo. Ma dove vuole arrivare? Scusi. Allora, volevo dire che effettivamente credo che in questo marasma attuale sia nostro diritto, voglio dire, esprimere ormai un senso di estrema fatica. Ma lei può esprimere tutto il senso che vuole. Il desiderio di liberazione. Ma lei può esprimere tutto il desiderio di liberazione che vuole, nessuno glielo impedisce, Maria Grazia. Non arrivano i carabinieri, diciamo. Cioè, non arrivano. Volevo togliere un sassolino, di una trasmissione che ho sentito sempre di La Zanzara due o tre mesi fa. Dove si tolga anche questo sassolino, non si preoccupi. Attuale, prego. Sì, no, sì, attuale, si tolga anche questo sassolino. Allora, io ho sentito questo dottor Sgarbi, sì. E io stimo questo dottor Sgarbi. Un storia dell'arte, quindi so che è stato un grande, quindi mi allora? Diceva assolutamente. Però sentirlo parlare, sparando adesso io non voglio dare, voglio dire... sulla Bindi, in quella maniera, parlando del suo lavoro come, come ministro della sanità, come persona inetta che non ha saputo. Cioè, queste cose erano assolutamente infondate e cattive. Nel senso che le dico una cosa. No, però adesso non mi può dire 100 cose, signora. Va benissimo quello che ha detto. Ha detto non va bene perché essere presa con la Bindi è stato volgare. Credo che sia questo quello che voleva dire, no? Giusto? La colpì proprio sulla sua attività di ministro, va bene, cose che non erano vere. Dicendo cose che non erano vere, siamo d'accordo. Grazie. Ha detto fino in fondo, si è andato avanti almeno una mezz'ora, insomma, parlando contro la Bindi. Vabbè, d'accordo, grazie. 800 24 00 24. E torna alla Zanzara, caro Parenzo, torna alla Zanzara, qui Mario Borghezio, eccoci qui. Volano bassi sull'euro. Che è successo? Volano? Le nostre borse volano bassissimi. Chi vola bassissimo? Volano bassi gli attacchi speculativi. Vabbè, oggi è una giornata leggermente un po' in ripresa, sì. Diciamo la verità, un po' in ripresa. Speriamo che non sia, diciamo così, la quiete prima della super tempesta. Adesso non porti sfiga, Borghezio, però. No, io no, però se uno legge il bollettino di Lyndon LaRouche che mi è appena arrivato. Il bollettino, scusi, che ha detto il bollettino di? È l'agenzia Air Executive Intelligence Review che è l'edizione europea del pensiero del pensatoio di Lyndon LaRouche. Ma chi è sto Lyndon LaRouche? Scusi. Lyndon LaRouche è un grosso personaggio che devo dire aveva previsto da molto tempo questo disastro. Scusi, come si chiama esattamente questo signore? Si chiama il professor Lyndon LaRouche, è stato anche candidato indipendente alle elezioni americane. Ah, sì, certo. Aveva ogni tanto delle teleconferenze e ha una sua centrale in Germania, europea, e poi lui vive una persona di una certa età, credo che abbia 80 anni. È un destra, un guru del pensiero economico indipendente americano che ha... devo dire, secondo me, centrato soprattutto una grande Paundiano. Battaglia a favore del ripristino della Glass-Steagall Act, che ho sostenuto anch'io. Della legge americana che purtroppo è stata abolita tempo fa e che imponeva la separazione fra le banche speculative e quelle commerciali. E quelle Adesso voliamo altissimo qua in questo caso. Però, io credo che si debba andare al cuore della radice di questi. E per quello che riguarda l'Italia, qual è il problema? Il Sud, qual è il problema? Cioè, diciamo la verità, Borghese. Il problema del sud c'è sempre, il problema del sud è, diciamo, non è necessario che pensiamo alla crisi attuale, il problema del sud è un problema endemico, è, diciamo, Italia uguale sud uguale disastro. Ma cioè, scusi, Italia uguale sud uguale disastro, uguale che significa? Sud uguale disastro, perché finché c'è il sud nell'Italia, cioè finché noi siamo col sud nell'Italia, il disastro, diciamo, è quotidiano. Cioè lei dice senza, scusi un attimo Borghezio, senza il sud questa crisi non ci sarebbe senza stata. Senza il sud si starebbe benissimo. Alla grande, dice lei, alla grande. Però glielo vado a dire a Napolitano, con un uomo del sud, come sa, Napolitano. Ma Napolitano è un uomo del sud, è anche un galantuomo del sud, è una persona per bene. Però mica può rinnegare le sue origini, la sua appartenenza culturale. È un, e che appartenenza è un uomo, culturale ha? Beh, insomma, è un uomo che si è formato in quella realtà culturale, eccetera, e però diciamola tutta, dà un'immagine, offre un'immagine seria e intelligente e saggia, che è esattamente l'opposto del sud. Quindi, ho capito, però è uomo del sud, come la mette lei? Ce le dice, è un uomo del sud, ma ha tutte le regole alla loro eccezione, cioè lui rappresenta un sud virtuale di persone sagge, di intelligenze politiche, cioè un sud che non esiste, lei dice, esatto, oneste, eccetera. Quindi, però perché la realtà è molto diversa, la realtà è piena di disonesti, è molto diversa. Ma noi ci apprestiamo il 23 a festeggiare con i nostri tre ministeri al nord, perché gli altri non li volevano, ma ce la sono presa in quel posto, perché come ha annunciato trionfalmente il ministro Calderoli, trionfalmente aprono, no, però mi scusi, siamo perché lo sa meglio di noi, perché è un primo paletto triplo che piazziamo al nord. Ho capito, però cos'è un paletto triplo, perché paletto triplo, tre ministeri, lei sa meglio di me, che ministeri, fra lei... quello dell'economia, no, ma che ministero dell'economia, quale ministero dell'economia, dai, ma ha detto il ministro Bossi, il ministro Calderoli, il ministro Tremonti. Ma non è... No, Tremonti non ha detto nulla. Cioè, ma l'ha detto Calderoli. Ma appunto... No, cioè... ma Calderoli non è Tremonti, però. Scusi, però... No, Borghezio. Però non è mica stato smentito da... Finirà così, Borghezio, finirà così. Passeranno il lunedì, come già fanno, a Milano. Dal martedì al venerdì a Roma e te saluti Caterina. L'importante è lavorare bene quei giorni che sono al nord. Un giorno, ma ci sono già al nord. A Roma, sì, e poi anche disintossicarsi, perché sai, a Roma si incazzature quotidiane, quindi... Cioè al nord poi, ci si disintossica un po' dalla... dal cattivo clima, specialmente adesso, insomma, data la situazione. Noi non vogliamo fare che odore si respira a Roma, Borghezio? Che odore si respira fetido, a Roma? Fetido. No, come fetido? Fetido, una puzza generale. Basta leggere i giornali. Non è mica che uno si... ho capito, ma per esempio quel milanese... Quel milanese Il puzzo è diffuso in tutte le aree politiche. Non c'è... Quel milanese lì, pur essendo di origini irpine, per esempio. L'unica cosa buona che ha quello lì è il cognome. Ah, lei dice. Forse per lei lo farebbe arrestare subito. L'autorizzazione la darebbe subito. Modificato eventualmente con un decreto del presidente, della presidenza. Comunque. Cioè, se fosse per lei. Si può fare. Dovrebbe cambiare cognome, perché infanga. No, vabbè, non è adatto, rappresenta uno stile non precisamente padano. Ho capito, però fatto sta che a Milano è nato, cioè non è che è nato da un'altra parte. Lo so, ma sa, c'è tanta gente che nasce di qui. Di origini irpine. Appunto. Come appunto? Che c'entra? Ma di origini. Cosa vuole che le dica? Comunque... mater semper certa, pater unquam, quindi... Ho capito, Quindi cosa? Da dove arrivano, ma... Cioè, l'importante è fare pulizia, come si suol dire. Ho capito. Noi siamo lì per quello. Comunque è bella questa notizia di Monza. Poi, quale notizia? Questa dei ministeri? Però la scelta simbolica di Monza, dove è conservata la colonna ferrea, simbolo millenario della legittimità del potere statuale del nord. Cazzo, che attualità pazzesca! Beh, una cosa di grandissima attualità. La storia è storia, non mica, certo. mica ci vogliamo trastullare. Però sia Borghezio. E poi è una capitale longobarda, quindi c'è tutto, c'è la colonna ferrea, c'è la transizione longobarda. Però lei stesso si rende conto. Con Milano è un bel segnale, diciamo che rispetto a tutti quelli che a Roma dicevano che non si poteva fare, è politicamente parlando e educatamente parlando un bel vaffanculo a Roma. Ah, lei dice così, ecco, sempre detto, parlo, sempre detto con... Senza voler offendere il sindaco Alemanno che se l'è pigliato in quel posto. Ah, lei dice ecco, se l'è presa... Ma guardi, no, però scusi, guardi che lui... Con grande simpatia, però sì, dai, no, dai, però... non li voleva, invece se li becca. Cioè, beh, se li becca, bisogna vedere, lei sa benissimo che... Questi ministeri, però saranno ministeri senza misteri, perché in Italia c'è una vecchia tradizione dei misteri, invece questi saranno ministeri trasparenti, piccole proporzioni, poca spesa, molto lavoro, niente trallazzo, zero setteismo, tutto il contrario di Roma ladrone. Ho capito, ma ci sa, il problema è che non ci saranno, perché non ci sarà nessuno in questi ministeri. Ma guardi, l'assenza di personale è la migliore garanzia contro l'assenteismo. Vabbè, scusi, però anche Tremonti è contento, si prende molto. Ma lì ci sarà un cartello. Scusi un attimo, Borghese, lì ci sarà un cartello con scritto Ministero della Semplificazione, una specie di targhetta. È più semplificato di così. Una porta si apre, non c'è, ci sarà un telefono. Ogni tanto arriva. Di Cinecittà. Ma poi è molto piccola, quindi i rapporti fra i vari ministeri si potrebbero anche utilizzare volendo i piccioni viaggiatori. Comunque è un risparmio, è un segnale di semplicità, di risparmio. Ma non succederà nulla, al contrario. Guardi, i saggi raccontano che meno si governa meglio è. Questo è un paese. Ma io posso anche essere d'accordo, se è un modo per eliminarli i ministeri, alcuni ministeri, va benissimo, per carità. No, è un modo, diciamo così, elegante, intelligente, educato di dire che ormai ci facciamo da noi. Che cominciamo con tre. Ah, poi, lei dice, portiamo. Portiamoli qui, portiamoli qui. La Repubblica Cisalpina comincia a crearsi, comincia a prendere forma nelle nebbie. E si staglia adagio. Vabbè. Diciamo che è un secessionismo alla vaselina. Ah, un secessionismo alla vaselina, dice lei. Sì, cioè, in che senso? Adagio per gradi, senza offendere nessuno, perché poi bisogna avere rispetto anche per quelli imbecilli che credono ancora nello Stato centralista. No, per carità, assolutamente. Questo, scusi, lei dice, allora, riassumiamo... L'ignoranza e l'imbecillità non si possono sconfiggere con... Assolutamente, però ecco, riassumiamo questo concetto che è importante. Lei dice che la questione dei ministeri al nord, alla fine, è fatta per fregare Roma, alla fine, no? È fatta per anticipare, prefigurare... Il secessionismo sicuramente avverrà in futuro, cioè l'indipendenza del nord, è una sorta di secessionismo determinata secondo i principi dell'ONU, della carta dell'ONU. Però oggi come oggi, visto che come l'hanno impostata in maniera simpaticamente imbecille quelli di Roma, con polemiche, non si può fare, eccetera eccetera, e dunque dico ad Alemanno è una grande soddisfazione. Noi non facciamo, io non intendo fare polemiche con Alemanno. Beh, come ha detto Salvini in quel posto, oggettivamente parlando abbiamo vinto noi, quindi a parte Roma 1-0. Va bene, perché sono tre ministeri per adesso. Andiamo a sentire la pubblicità, poi le faccio sentire un signore che canta, è interessante questa cosa, signor Borghezio. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Eccoci qui, è appena arrivata la notizia, caro Parenzo, che Tremonti ha detto sì ad alcuni emendamenti presentati dal Partito Democratico, lo ha riferito la senatrice Anna Finocchiaro, capogruppo del Partito Democratico al Senato, e questi emendamenti riguardano le indicizzazioni delle pensioni, la progressività del bollo sui depositi di titoli e la norma sull'ammortamento per le società concessionarie. Insomma, alcune norme proposte dal Partito Democratico sono state recepite come emendamenti da Tremonti. Il Partito Democratico, come sai, Parenzo, si trovava in una situazione oggettivamente difficile, che era quella di un elettorato che magari faceva difficoltà a capire, no? Non dico il sostegno alla manovra, però il mancato ostruzionismo, magari la mancata battaglia in aula, eccetera. Ma io penso che si trovi veramente in un momento difficile. Ma generale il Partito Democratico ha dei problemi che io colgo spesso in Parlamento, quindi... La signora De Giloro, ma chi è? Ammazza! Ha una voce lei è così perspicace o io ho una voce così facile da distinguere? Vabbè, ma è una voce facile da distinguere, calda. Nel senso che la sì, calda, va d'accordo, però la riconosco ormai, insomma, è stata più volte qui, la sento in televisione, sì, eccetera. Come andiamo? Bene, bene, grazie. Che sta facendo? Quando... al trucco l'onorevole De Girolamo. Ah, stai beccando le persone al trucco, esatto. Stai beccando le persone al trucco. Quando è che c'è questa presentazione ufficiale, questo fidanzamento ufficiale con il signor Boccia? Così la presentazione, diciamo, come dire, alla società. Ma l'attinenza con la manovra di Vabbè, Parenzo è quello che è, lo sappiamo. Effettivamente si occupa dell'aspetto economico, responsabile economico del Partito Democratico. Appunto, questo lo sappiamo. Diciamo, un'attinenza c'è. Comunque, in questa situazione in cui ci sono separazioni, matrimoni, eccetera, eccetera, cioè, ma lei, per esempio... Va bene che il signor Boccia viene da una situazione complicata da questo punto di vista, però nella sua prospettiva, nella sua idea di futuro, il matrimonio c'è oppure è una cosa che se non c'è è uguale? Se un uomo mi conquista e mi dà sicurezza, nella mia vita c'è. C'è. Diciamo che noi possiamo essere una coppia di responsabili. Ah, una coppia di responsabili. Che significa una coppia di responsabili? Scusi. No, rispetto alla famiglia, rispetto ai figli. Se costruiamo un'unione solida c'è il futuro, se no, no. Questo però è una cosa un po' la palissiana, insomma. Come mai lei si sta facendo i fatti miei invece di farsi i fatti della manovra? Mi sto facendo i fatti miei perché al trucco, quando lei ha il trucco ne possiamo approfittare. Al trucco. Come stare dal parrucchiere. È una situazione di relax, così. No, già mi sto immaginando lei che viene là truccata. Di che parlate stasera? Credo della manovra, della situazione in generale. Una noia tremenda, una noia pazzesca, una noia mortale, una cosa pazzesca. Si deve fare. Si deve fare, ma non c'è più niente da discutere, perché qui l'opposizione è d'accordo con l'approvazione più rapida possibile, anche se probabilmente voterà no. Ci sono questi emendamenti che adesso sono stati accolti da Tremonti. C'è un clima di responsabilità, cara signora De Girolamo. Così, è un clima di responsabilità. Chi l'avrebbe mai detto, no? Giorgio Napolitano ha fatto questo appello e vedo che, insomma, le opposizioni... È il governo di Napolitano più che il governo Berlusconi, diciamo la verità. Diciamo che l'opposizione di Napolitano, nel senso che l'opposizione è guidata da Napolitano. Ascolta solo Napolitano e per fortuna a questo punto che c'è, visto il momento così difficile di crisi, non solo italiana, europea, ma anche internazionale, se si ascoltano le parole di Obama di questi giorni, capiamo che l'attacco non è solo all'Eurozona, ma insomma ci sono anche problemi in America. Però per fortuna... non ha detto una cosa sbagliata lei, dicendo che l'opposizione in realtà si trova in una situazione molto complicata. Che facciamo di fronte a questa crisi? Ebbene, Napolitano ha alzato il telefono e ha detto: caro Bersani, qui bisogna che non si faccia ostruzione, che non si faccia pur essendo il Partito Democratico contrario alla manovra, a questo punto basta accogliere alcuni emendamenti e si approva in 448. Io credo che sia giusto, onestamente penso che l'Italia non è né di Berlusconi né di Bersani ma degli italiani, e quindi non è che l'opposizione, dimostrandosi responsabile e quindi adempiendo al proprio dovere, è responsabile nei confronti del paese. Non fa un favore né al presidente Napolitano né al presidente Berlusconi, ma agli italiani. Senta, non ci possiamo permettere di fare la fine di altri paesi. Lei quanti figli vuole? Se deve immaginare, uno solo? Uno o tre, dispari. Ho capito. Uno o tre. Ma l'ha comunicato al signor Boccia questa cosa qui? Già? Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Come non c'è bisogno? Deve ancora lavorare molto per essere l'uomo del mio futuro. Deve ancora lavorare. Parenzo infastidito dalla nostra conversazione, si sente. Deve lavorare molto. Che deve fare per lavorare? È geloso. Parenzo è geloso. È gelosissimo. È normalmente geloso. No? Scusi un attimo, ma perché deve lavorare molto? Che ha fatto di male recentemente? Ha commesso qualche cosa? Ha fatto qualche cosa che non andava? No, a parte insomma di essere il PD, tutto a posto. Vabbè, ma quello insomma, quello lei lo sapeva sin dall'inizio, però. Non è che ognuno si mette nei guai. Nessuno è perfetto. Ognuno si mette nei guai da solo in questo caso. Lo so. Come si comporta bene? Non è uno che. Si comporta bene come fidanzato, diciamo. Diciamo che io non è che dia molta scelta, in questo non sono molto democratica. Ma lei è rigorosa, no? È rigorosa. Moltissimo. Non deve più sgarrare, perché mi sa che uno, da come posso intuire, l'ho incontrato poche volte, è un mattacchione come carattere. si daranno regolate, cercherà di essere responsabile. Magari faccio una telefonata a Napolitano e gli chiedo di telefonare Boccia anche per gli aspetti sentimentali oltre che economici. È ancora un po' mattacchione oppure no? Riga dritto adesso, secondo lei? Riga dritto, almeno così. Diciamo, questa è l'illusione. Ma scusi, per concludere questa cosa che è fantastica, ma vivete insieme oppure no? A Parenzio? Disturbi la linea, grazie. Ho fatto una domanda troppo intima, vabbè, ok, ho capito. Pronto? Niente, mi ha ridato la linea perché ho chiesto se vive insieme. Ho fatto ufficio stampa, onorevole De Girolamo. Va bene. Abbiamo altre dichiarazioni da fare. Va bene, già è abbastanza, sì. Già è abbastanza. Ha già detto abbastanza. C'è cioè una cosa pazzesca, un utilizzo improprio di risorse della Sette. Allora, roba. Abbiamo sempre in linea l'onorevole Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Dica qualcosa di moderato. Dove si trova, signor Borghezio? A Bruxelles, i padani lavorano. Ho capito. Mentre magari Roma non è che gli altri non fanno. Si ride, si scherza, si balla sulla nave che affonda. Ho capito. Come se la nave affondasse. Scusi un attimo, se l'Italia affonda, per carità, non affonderà, però lei un po' gode, diciamo la verità. Ma quando, diciamo così, Roma vive giornate cattive, noi, diciamo, in Padania godiamo sempre. In questa occasione facciamo un'eccezione. E perché? Perché la situazione è delicata e poi sa. Scusi, però il crollo dell'Italia non potrebbe facilitare. Ci insegna che quando l'Italia ha dei crolli economici, eccetera, delle difficoltà economiche, poi tocca sempre a noi pagare. Quindi sa. Siamo evidentemente interessati a che la situazione regga, perché poi gira chi paga il conto è sempre il nord. Ah, lei dice, stiamo gufando contro la speculazione. Vabbè, questo d'accordo, questo ma è ovvio. Ma il crollo dell'Italia non potrebbe avvantaggiare quello che lei spera, cioè il secessionismo? Ma il secessionismo va avanti già da solo. Non ha bisogno di aiuti. Il secessionismo è un moto naturale, spontaneo, dice lei, no? Indipendente dalla secessione del nord, e la secessione del nord è un fatto sicuro, direi. Quanto bisogna aspettare? Storico previsto, quindi è previsto e prevedibile, quindi non può essere impedito. Quindi sono quei fatti, basta aspettare fiduciosamente. Certo. Il nostro compito politico è di non ritardarlo. Noi non è che dobbiamo fare molto, e la storia va in quella direzione. Lei dice che questi tre ministeri sono una piccola zeppetta, no? Cercare un anticipo, un antipasto, un assaggino molto interessante e ghiotto per noi, che però rinunciamo al boccone definitivo. Non c'è dubbio, però lei si accontenta di una targa, va bene. Una bella risposta a quelli che dicevano che non si potevano spostare, eccetera, eccetera. Una bella risposta ad Alemanno, lei ha detto che se la piglia in quella. Mica solo lui, tanto c'è. Però io dico questo, cosa aspetta sto sud a prendersene anche lui, almeno 3 o 4, perché... Per lei sarebbe un godimento pazzesco, così. Perché è molto importante ed è una conquista anche di cultura politica, perché nel sud ci sono intelligenze, c'è spirito di iniziativa. Certo, non la fiderei a quelli che hanno ridotto Napoli in queste situazioni. Non c'è dubbio. C'è la signora De Girolamo ancora? No, era il trucco e al microfono adesso. È andata via, No, io sono uscito dal trucco, se vuoi provo a ritornare al trucco. C'è la pubblicità, poi un'ultima domanda. Se vuoi posso passarti signor Antonio, che ho qui davanti. E chi è il signor Antonio, il truccatore? È uno che sta tornando a casa, da via Novaro sta andando. Nel senso che c'entra. Perché sei contro il popolo? No, non sono contro il popolo. Sono l'onorevole De Girolamo. No, per carità. Prima metti la sigletta, un po' come passare al bar prima di tornare a casa a ascoltare. Vabbè, la radio. Ma adesso non pigliare per il culo. No, che è meraviglioso. E adesso ti chiedo di parlare con il signor Antonio, che sto tornando a casa. Sì. Che è un cittadino romano, arrabbiatissimo con quello che ha detto Borghezio, e tu mi dici chi se ne frega di Antonio. Ma guarda che sei un bel tipo. No, vabbè, passamelo però, e non la fare troppo lunga. Passamelo. È andato via. Pubblicità. Yeah. non sono impazzito, Parenzo, non sono impazzito. E sai che è successo l'altro giorno, no? A Besozzo, provincia di Varese, un signore cantante che si chiama Alessandro Pelagalli, che abbiamo qui collegato, signor Pelagalli. Sì, sì, buonasera. Come sta? Abbastanza bene, posso dire. Ma lei parla leccese o milanese? Tendo più sul salentino che sul milanese. Dove è nato? Gagliano del Capo. È nato a Gagliano del Capo, dove Gagliano sta? Gagliano del Capo, è in provincia di Lecce. Ah, è nato lì, però è residente... 5 chilometri da Levo, Casantaleo. Ed è residente a Milano da quanto tempo? 4 anni circa. Ah, da 4, da poco? Sì, sì, sì. Ma come è capitato in questa festa della Lega, scusa? Niente, io appunto, come diceva prima, faccio il cantante, sì. E mi ritrovo a questa festa... per una cortesia, diciamo, per uno scambio di cortesia con un mio collega. Niente, lei, la ragazza, non poteva appunto fare questa festa qua, mi ha chiesto la cortesia se potevo andarci io, ma questo già lo so da un mese, da un mesetto circa. Ma scusi, perché si è messo a cantare Italia, ecco, un brano per Unità d'Italia in una festa leghista? Ecco, è impazzito? Allora, io... No, non sono impazzito. Cioè, si è beccato il dito medio di Bossi. Ecco, e lo colleziono insieme magari a... E poi l'ha addirittura querelato, l'ha denunciato. Certo. E per che cosa, scusi? Allora, perché... guardi, io mi ritrovavo a fare questa manifestazione qua, a mia insaputa, che fosse una Lega leghista, una festa leghista. Vabbè, ma l'avrà capito subito quando è arrivata, certo, abbia pazienza. Però io credo fare quel tipo di canzone, innanzitutto le richieste che mi sono arrivate subito dopo quella canzone sono state tarantelle, sono state balli napoletani, canzoni napoletane. Ho fatto una domanda ben precisa al pubblico che era lì, chiedendo appunto la loro provenienza, se fossero stati se ci fossero stati dei meridionali, e mi sono visto alzare da 3/4 di persone che c'erano lì la mano. Scusi, ma quando è che Bossi le ha fatto questo dito medio? Allora, Bossi, diciamo che lui è intervenuto sul palco per fare questo il suo discorso, e a mia insaputa, o meglio, io avevo chiesto informazioni a che ora doveva venire su. Vabbè, ma al di là di questo, a un certo punto è arrivato, e poi che ha fatto? Ha sentito questa canzone? Ce la canti un po', un attimo? Qual era questo brano per Unità d'Italia, scusi? È bianco, rosso e verde. Come fa sto? Come fa questo brano? Lui dice una frase che praticamente Italia del tricolore, elevo ai cieli la tua bandiera. Com'è che fa? Italia del tricolore. Sì, ma la canti un po', la intoni un po', altrimenti non capiamo. Migliaia di canzoni in giro per il mondo, milioni di emozioni hanno fatto vibrare i cuori, per poi arrivare al ritornello che fa Italia del tricolore. Elevo ai cieli la tua bandiera. Scusi, ma lei come le è venuto in mente di cantare questa canzone di fronte ad una platea? Borghezio, reagisca! Un attimo, ragazzi. Questo signore che saluto con piacere, sì, probabilmente è equivocato, perché Bossi sicuramente ha voluto fare una battuta di spirito. Beh, il dito meglio ha fatto. Dovrebbe essere così intelligente da capire che a provocazione si risponde contro provocazione, ma sempre in uno spirito. Le feste della Lega sono fatte di battute, poi quando si parla di politica si parla seriamente, ma chiaramente se c'è stato un gesto di questo genere, un gesto di voglio dire, che voleva quasi gentile, dice lei, deve essere spiritoso, ed era rivolto a lui e non certo a un simbolo. Simbolo politico, storico, che ovviamente noi rispettiamo, perché vede noi siamo persone per bene, sì, e rispettiamo le istituzioni nelle quali ci troviamo a vivere, però conserviamo nel nostro cuore un ideale, ed è quello dell'indipendenza. Questo l'ho capito, parte. Però signor Pelagalli, signor Pelagalli, scusi un attimo, sì, perché vuole querelare Bossi? È andato a fare una denuncia. Ho querelato Bossi. Ma perché? Perché? Allora, per il dito medio, ma sa quante persone dovrebbero querelare Bossi? Se ho la possibilità di replicare. Allora, okay. il signore ha detto il suo collega. No, non è il mio collega, il signor Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, comunque. Ah, ok, niente, mi ha detto che l'ha fatto ironicamente. Ma è chiaro che l'ha fatto. Invece no. L'avrà fatto anche ironicamente, ma io, se io mi sarei permesso di fare quel gesto a lui, cosa sarebbe successo? Ma niente, ma nulla. Facciamo la prova, facciamo la prova. Mando un'altra persona a fare un gesto del genere. Poi, ma si figuri quello, solo. Io non ho un ideale politico, a differenza sua, e io la sua idea. Ma perché politica deve andare in tribunale? Per cercare di sgraffignare qualche lira? Ma queste cose non... No, lui comunque ha violato quello che è la mia persona, perché io l'ho... violato la sua persona, no, per la galla. Certo, perché la figuraccia su un palco con di fronte un bel po' di gente ce l'ho fatta io e non lei, mi dispiace. Cioè, ma guardi, allora... io le ripeto quello che l'ho detto, lei ha fatto una provocazione in un ambiente, quando no, si no, cerca no, ad no, altri, ascolti, normalmente non si vanno le provocazioni. Lui, lei l'ha fatta, ministro, e si è ricevuto una risposta altrettanto ironica. Cioè lei ha fatto una provocazione con questa canzone, per la gara? Assolutamente no, sono loro che si sentono in difetto, assolutamente no. Comunque vadano le cose, guardi, la cosa più importante è quello che lei ha detto una cosa importantissima, ha detto la grande verità, che quando ha fatto alzare le mani a quelli che nella festa della Lega erano meridionali, un sacco di gente ha alzato la mano, e questa è la cosa più importante che sentiamo questa sera, perché è la verità. Io sono molto lieto che nelle feste della Lega ci sia tanta gente d'origine meridionale e che viene a sentire Bossi, non le sue canzoni sul tricolore, che sarà molto bella anche, magari anche intonata, che ne so. Però, normalmente da noi applaudono quando si suona la un'idea politica o la differenza che sia. Un attimo, però non vi accavallate, scusate. Mi lasci terminare, e a differenza di quello che succede quando si suona nelle feste l'inno di Mameli, che nessuno lo canta, da noi quando si suona il Vapensiero tutti lo cantiamo, un motivo ci sarà. Io non fa parte del mio repertorio, pertanto. Vabbè, ma scusi, però lei a un certo punto ha intonato Padania, cioè stava recuperando la situazione. Volevo quantomeno ripetere. Allora, ho capito, prima intona Padania e poi va in tribunale dei carabinieri a denunciare Bossi. Allora, se mi fa spiegare, glielo spiego. Ma un attimo, amichevolmente, ma proprio detto con grande amicizia e simpatia, andare in tribunale per una cosa così è proprio da Perù. Ah, è proprio da Terun, dice Borghezio. Traffico, torniamo subito. Bene, bene, siamo qui alle 20:20, ascoltatori, adesso, però prima voglio salutare Borghezio. Buona serata, Borghezio, a presto. Buona Padania a tutti, salutatemi l'Inter, un cielo simpatico, e ditegli di spendere meglio le sue energie, che se viene un'altra festa della Lega lo accogliamo volentieri, non pensi a fare... Pelagalli sarà accolto a braccia aperte, un'altra festa della Lega. Noi siamo ospitali e ci piace la gente simpatica che canta e che ride e che scherza, quindi venga, che da noi si troverà sempre bene. Grazie, E magari potrà essere difeso da noi, via bene. Pelagalli, dica. Sì, no, allora gli do appuntamento per il 2 agosto ad Alzate, sempre nel Varesotto. Vabbè. Per un'altra festa leghista. Vabbè, Ma non ho capito, non hai capito, Parenzo, scusa, non ho capito. Ma non ho capito che razza di reato sarebbe fare il dito a uno, non ho capito. Carissima, è ingiuria. Ingiuria. È definito reato dalla Cassazione, ahimè. Ah, sei già informato, ha già parlato con il professore. Certo. Bah, Pelagalli. Cioè, ingiuria, lei accusa Bossi di ingiuria. Certamente. Ingiuria, gli vuole sgraffignare qualche euro, diciamo la verità, Pelagalli. Ma guardi, questa forse sarà la sua idea. La mia idea è quella che sono stato offeso, e per lo più da un senatore avvicinato da un ministro, non della Padania, della Repubblica Italiana. Vabbè, quello fino a prova contraria è così, per la gara. Su questo ha ragione lei, ma è... Ecco, e io a questo che il signore prima non mi ha fatto dire, al di là dell'idea politica o religiosa che sia, qualunque sia l'idea, prima di tutto c'è il rispetto per un'altra persona. Prima di tutto. Ho capito, ma il dito medio. Ha fatto la querela, che ha fatto? Non è che si può andare. Ha già fatto denunzia? Sì, ha fatto una denunzia, certo. Ci penso io adesso. Dove è andato a fare questa denunzia? In caserma dei carabinieri. E che le hanno detto i carabinieri? Che lei ha ammattito? Hanno stilato una denuncia. E che hanno scritto? No, è curioso, perché in Italia si... Ci legga il verbale. Ma non esiste minimamente che vi leggo il verbale. Ma come non esiste minimamente? Per la Galli, ma non è che... Io dichiaro di aver querelato, adesso tutto quello che rimane lì per me. E basta, perché io non voglio farmi pubblicità come lei ha detto, che voglio sgraffignare qualche euro. È stata violata la mia Ma noi provochiamo, Pelagalli, scusi. Ma le sembra normale, con tutti i problemi che ci sono, i tribunali intasati, fare una denuncia? Guardi, non lo so per lei, io non credo che se lei le danno qualche ingiuria lei se la tiene. Ma mi mandano a quel paese ogni giorno alla zanzara. Ma si vede che ci sarà abituato, caro mio. Io purtroppo. Come ci sarà abituato? Che vuol dire? Se lui non se la prende, io me la prendo, perché probabilmente non fa parte della mia quotidianità. Ho capito, ma allora. Dovrei denunziare tutti, ma non è normale denunziare tutti. Qual è il problema? E bisogna reagire, perché se no non cosa reagire al dito medio. Pelagalli è il primo che reagisce al dito medio di Bossi con una denuncia ai carabinieri. Spero che ce ne siano altri che si facciano rispettare anche, perché un ministro e un senatore, non perché hanno quella, anzi a maggior ragione che hanno quella carica, non possono permettere assolutamente, perché io prima di tutto sono un cittadino italiano. Pelagalli, lei diventa un idolo, lei diventa un idolo, Pelagalli deve reagire, diventa il paladino di tutti quelli a cui si è rivolto Bossi con il dito medio. Però scusi un attimo, Pelagalli, se lei sta su un palco, no? Fa il cantante, qualcuno le fischia, dice ignorante, bestia, eccetera. Non è la se lei dovrebbe denunziare tutti. Allora, io non ho paura, della legge, io credo che la legge sia della nostra. Ma che c'entra la legge? Io sto dicendo un'altra cosa, Pelagalli. Cioè. Scusi, allora ci facciamo offendere tutti senza testare. Ho capito, ma lei è un artista, si può beccare anche gli insulti da parte di chi non gradisce alcune canzoni. In questo caso c'era Bossi che non ha gradito la sua canzone e gli ha fatto il dito medio. Prende e porta a casa. Se il signor Bossi o chi per lui sarebbe venuto a dirmi, ascolta. Fosse venuto, sì. No, chi per lui non gradiamo questo tipo di canzoni, mi faccia la ma lasci perdere, anche se uno Montani, o comunque canti, cambi repertorio, io l'avrei accettato. E le dirò di più, ad oggi mi ha telefonato miliardi di giornalisti, non ho sentito una telefonata del partito che chiede non scusa. No, lei vuole le scuse da Bossi? Non le voglio, ormai scusi, se me le dà tra un anno me le dà, cioè io però avrei guardato con un occhio diverso questa persona se quantomeno si sarebbe degnato di dire effettivamente ho esagerato. Ma lo fai da ministro, lo fai da senatore, non da Lega. Ma lasci perdere, lei sta creando un precedente gravissimo in questo paese, sta creando un precedente gravissimo, ci dà l'autorizzazione a ogni suo fan o ogni persona che viene a vedere il suo spettacolo, che magari appunto come diceva Cruciani dice che canzone oscena, che stupida, che hai fatto una canzone stupida. Se uno le dice che lei ha fatto una canzone stupida, cosa fa? Lo querela e denuncia tutti? Ma che roba è? No, perché lui l'insulto l'ha rivolto a me personalmente su un palco. Lui non ha commentato con altre persone. Perché no, però scusi, Pelagalli, lei lo denuncia perché è Bossi. Se fosse stata una persona comune non l'avrebbe denunciata. Diciamo la verità, su. Ma questo lo dice lei, non io. Non l'ha detto lei, non io. Beh, certo che lo dico io. Chi lo dice? Scusi, è chiaro che lo dico io. Questo sarà un suo pensiero. Certo che è un mio pensiero. Certamente è un mio pensiero. Di chi? Certo. Lo sto dicendo io, non è che lo dice. Per me non è assolutamente così. Non corrisponde nella mia. Scusi, Pelagalli, Bossi è venuto là. Le ha fatto un dito medio. E lei lo vuole portare in tribunale, ma è una follia. Ma per lei sì, per me no. E perché? Avremo due idee diverse. Ma per quale motivo? No, mi scusi, per carità, ma poi va bene tutto. Ho preso la mia professionalità su un palco, io sto lavorando, non puoi permetterti di insultare una persona che sta lavorando per far divertire la tua gente. Ma anche la giornalista, allora dovrebbe denunziare anche la giornalista, ti ricordi Parenzo, la giornalista del TG3, della RAI, che di fronte a Bossi da una domanda ha reagito col dito medio oppure con una parolaccia, non mi ricordo con che cosa. Io non mi devo curare dei problemi della giornalista. Ma questo l'ho capito, Pelagalli. Bisogna un po' ragionare sulle leggi, come lui, io la ritengo una persona uguale alle altre, non lo guardo come ministro, io guardo come una persona che a me ha offeso, punto, di fronte a una platea di gente. Vabbè. Per lo più mentre stavo lavorando. Dunque per faccia lui un appello a tutti quelli insultati da Bossi col dito medio, secondo lei naturalmente, ribellatevi, denunziate. Scusi? Farebbero bene a prendere le loro decisioni come ho fatto io. Denunziate. Class action. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma fortunatamente siamo in un paese democratico, pertanto non bisogna chiedere permesso a nessuno. Va bene. Pensa come vuole. Pelagalli, però a me le canzoni sul tricolore piacciono molto, glielo dico subito. Però un CD allora, glielo dedico. No, però mi faccia la strofa fantasia. Naturalmente sì, mi fa piacere se lei mi regala un CD. Però mi faccia l'ultima strofa, quella bella sul tricolore, cantata bene per i nostri ascoltatori, perché a noi piacciono sempre le canzoni sul tricolore. se può, maestro, se può, maestro, tra una querela e l'altra, magari ci scriva una canzone anche per la zanzara, se può, se può, una zanzara e il tricolore, che ne so. Ma adesso che è sta stupidaggine? Questa è la stupidaggine, se squipedale. Stai dicendo una cosa gravissima. Gravissima. Ho fatto la proposta al maestro. Vabbè. Maestro Pelagalli, ci intoni innanzitutto il finale di questa canzone, che era molto bello. Molto bello. Italia del tricolore, elevo ai cieli la tua bandiera. E il finale fa l'acuto dicendo Italia e non Padania. E come fa? Italia. Italia, no, mica una sola volta lo farà l'acuto, no? No, lo fa una volta sola. Ah, una sola volta lo fa. Lo faccia fare almeno due. Alessandro, dai, Pelagalli, grazie. Sì, grazie a voi. Viva l'Italia! Viva sempre. Abbasso la Padania o no? Ognuno ha le sue idee. Vabbè, ma, lei, ma lei è peggio di Andreotti, Pelagalli. No, per me è allora fare, l'importante è che non insultano le persone, per me va benissimo. Ma non è un insulto, non è un insulto. Ritorniamo di nuovo. Grazie, grazie. Borsa, no, le ultime dalla borsa, è importante, è sempre Radio del Sole 24 ore, caro Parenzo. Fondamentale, fondamentale davvero. No, dico senza ironia, è importantissimo. A dopo. Benissimo, benissimo, 20 e 34, 800 24 00 24, Parenzo? Sì? Tra una cosa e l'altra, tra un impegno e l'altro, hai per caso sentito i titoli della 7 di questa sera? Beh, certo, ero lì, ero in cabina di regia, amico mio. Vabbè, comunque io li faccio sentire anche Fagli ai... sentire, perché erano molto densi oggi, non voglio anticiparti nulla, ma erano titoli proprio densi. Se lo dici tu, se lo dici tu. Il leggero conflitto di interessi, leggerissimo conflitto di interessi. Va bene, titoli. Dopo il venerdì e lunedì nero, in borsa si allenta la pressione sull'Italia. Milano chiude con il segno positivo, miglior risultato di tutta Europa. Buon esito dell'asta dei buoni del tesoro, il cui rendimento però cresce al 3,6%, si riduce il differenziale con i bond tedeschi. Ma la giornata era iniziata malissimo, con un avvio negativo di 5 punti a Piazza Affari. Poi il vertice europeo, Tremonti rassicura sulla manovra, vado a chiudere il bilancio dell'Italia, e la riunione di Bruxelles si chiude con una netta apertura di credito. Le turbulenze sull'Italia sono sotto controllo, dicono Commissione e Banca Centrale Europea. Così ai mercati torna il sorriso. Reduce dalla tempesta borsistica, da giovedì la manovra approda alle Camere. Berlusconi serra le file della maggioranza. Il governo è forte, unito e ha ottenuto risultati. Prevede che entro venerdì ci sarà il voto finale a Montecitorio e poi si rivolge all'opposizione, uniti nell'interesse comune. Immediata la replica del fronte di centro e centrosinistra, PD, Italia dei Valori, UDC confermano un loro patto d'azione, assicurano saremo responsabili per il bene dell'Italia. Ok al varo in tempi brevi con pochi nostri emendamenti, ma danno una scadenza. Dopo il voto l'esecutivo si deve dimettere. Un altro militare italiano, Roberto Marchini, morto in Afghanistan nell'esplosione di un ordigno nel distretto di Bakwa. Era all'ultimo giorno di missione, la 40ª vittima dall'inizio della nostra missione. Nonostante i dubbi leghisti, Frattini conferma l'Italia resta, ma Sarkozy intanto annuncia il ritiro di 1000 francesi entro il 2012, ucciso in un attentato uno dei fratelli del presidente Karzai. Proprio come in un film, Caduto dalle nubi di Checco Zalone, fuori programma la festa del Carroccio a Besozzo, provincia di Varese, dove Bossi mostra il dito medio per commentare un brano troppo italiano intonato dal cantante che era stato ingaggiato per la festa. Titolo Bianco, Rosso e Verde. La gente lo fischia, il cantante annuncia querela. Amico mio, hai sentito? Ultima notizia, anche questa vicenda dell'inno, certo, della canzone e del nostro amico Pelagalli, che è appena intervenuto e che abbiamo giustamente anche un po' bastonato per quest'idea di querelare, andare dai carabinieri per sporgere denunzia nei confronti di Umberto Bossi. Il fidanzato della signora suddetta che mi è passato prima per telefono, eravamo, cioè la signora della signora De Girolamo, l'attuale fidanzato, perché così ha detto, l'onorevole Boccia, l'onorevole ha confermato? Beh sì, ha detto di sì, ha detto il suo fidanzato, eccetera, eccetera. Quando l'onorevole Boccia ha appena affermato, non so se l'onorevole De Girolamo sarà d'accordo, credo. In studio, credo di no. Se vuoi posso interrompere la sigla iniziale. Beh, no, direi di no. No, decidi tu, io figuriamoci. Allora, dice Boccia che la manovra è il frutto dei disastri di questo governo, però noi responsabilmente, eccetera, eccetera. Non sarà la manovra che farà ripartire il paese, obiettivo che deve essere realizzato attraverso un'assoluta condizione, che la cacciata di questo governo. Beh, ho capito, però, caro Boccia, io dico una cosa, e la dico molto seriamente. Voi volete far passare questa manovra, è d'accordo, perché seguite le indicazioni di Napolitano, però, e poi il governo a casa. La seconda condizione, cioè il governo a casa, si può realizzare se c'è un'alternativa, caro Boccia. Perché finora Berlusconi è rimasto in piedi non solo per le questioni dei responsabili, giochi parlamentari, ma anche perché non c'è un'alternativa pronta. Caro Boccia, io e caro Partito Democratico, di una cosa io dico in più. Una cosa in più, che tutto questo clima di responsabilità, il richiamo a te non alla piace questo clima di responsabilità? Ma no, non mi piace, perché non c'è nulla di vero, perché il PD presenterà meno emendamenti e, come dire, e farà meno ostruzionismo per senso di responsabilità, perché glielo dice Napolitano, e perché glielo chiede Napolitano, senza ombra di dubbio. L'unica ragione è quella che Napolitano glielo chiede, per dare un segnale a chi, a che cosa, ai mercati. Certo. Ma i mercati, sai, ma come c'è? Ma cosa certo? Cioè, no, qui certo, c'è un sto governo, dicendo, certo, no, capito, certo, certo sto io dicendo, volevo io confermare capito quello che dicevi. Ma cosa certo? Sta bene, no? Ma cosa certo? Cioè, qui c'è un governo che ha una sua maggioranza, ha i suoi responsabili, ha i suoi scilipoti, ha i suoi pidiellini. Si votassero la manovra, e loro pensano che così si mette in sicurezza il paese. Loro pensano questo, loro pensano che con questa manovra, con questo governo, si mette in sicurezza il paese. Ma allora a cosa serve il gesto di responsabilità? A contingentare la discussione? È un dibattito politico questo. No, ma non ho capito bene, però secondo te, no, cosa bisognerebbe fare? No, spiegami. L'opposizione, faccia l'opposizione, perché tutti gli emendamenti ho che capito, ma se il Presidente della Repubblica chiede all'opposizione, chiede al Partito Democratico di non fare ostruzionismo, alcuni emendamenti sono stati approvati. Alcuni emendamenti che chiedeva l'opposizione sono stati approvati oggi dopo un incontro con Tremonti. Dunque, evidentemente l'emergenza possa ridare fiducia ai mercati esteri. Non ci sarà solo questo, però è un piccolo segnale. No, è una pantomima. Però il signor Barisoni prima mi ha spiegato, grande esperto di economia, come sai. Io mi inchino, non sto ironizzando, naturalmente. No, mi ha spiegato prima che oggi sono bastate alcune frasi pronunciate da Bossi, da Tremonti e da Berlusconi per dare un minimo di fiato ai, naturalmente non c'è solo questo, però si aspettava anche un segnale dal governo, magari non basterà, nei prossimi giorni ci saranno altre turbolenze, eccetera eccetera. Che sicuramente tipo di segnali? Io non capisco che tipo di segnali. No, che il governo c'è in qualche modo, che è presente, che lotta, che cerca di fare qualcosa prima. No, ma che il c'è, che non è in balia, non è in balia del nulla, capito? Poi ma è in balia degli scandali, è un governo debole perché è in balia d'accordo, degli scandali, d'accordo, d'accordo. Detto questo, ogni giorno ne beccano uno. Detto questo, hai ragione. Detto questo, ti ripeto, la questione fondamentale è un'altra, come oggi scrive Oscar Giannino e come ha detto anche qui a Radio 24, che bisognerebbe rafforzare questa manovra, rafforzarla con altre botte alla spesa pubblica, con altre iniziative da questo punto di vista. Ma questo non sarà fatto, perché la manovra è quella e non resteremo deboli, siamo d'accordo. Resteremo così e tra 7 giorni continuerà il balletto e le speculazioni continueranno. Speriamo e di le no. Speculazioni ci saranno. Ma perché non è che i mercati finanziari ascoltano quello che dice Scilipoti o quello che dice un deputato o barbato dell'opposizione? Cioè, non è che funziona così. La credibilità di un paese non è data solo da questo, no? Se pensano che un gesto di responsabilità possa rimettere improvvisamente tutto a posto, perché poi perché si dovrebbero dimettere poi questi qui? Spiegami. Voglio chiedere al PD, ma perché si devono dimettere questi? Ma cioè, una volta che chi? La manovra è approvata, perché dovrebbero andare a casa? Il governo dovrebbe andare a casa. Ah no, infatti questo è spiegabile. Io non capisco. Cioè, perché deve andare a casa? Ma mi hanno appena votato. Tu non hai fatto neanche troppo ostruzionismo, ma io sono scemo che vado a casa. Ah, questo pure. Posso prevedere, faccio una previsione alla hotel, ma posso prevedere che ancora qualche giorno dureranno, nonostante l'azione di responsabilità. Faccio questa previsione clamorosa, guarda, clamorosa. Amore, amore mio, mon amour. Senti come sono simili queste voci, eh? Lo sai, non ti aspettavo proprio qui. E sentiamo se le riconosci una, sì, perché l'hai già sentito. L'altra, la prima. ma lui vive il lavoro come una missione. Difatti, no, quando, come una medicina, come una medicina. Quando dicono ma lui non si stanca, mollerà, non mollerà mai. Ma sa sta bocca bella, cacchio bella non c'è sta. Ma sa sta bocca dolce, cacchio dolce non c'è sta. È una persona che certamente ha fatto bene in Italia e ha dato un notevole impulso all'immagine dell'imprenditoria italiana all'estero. Certamente Berlusconi ha tanti programmi davanti a lui, il mio augurio è che gli riescono tutti. Ennio Doris un anno fa e De Benedetti nel 91. Saccia caccia fa, si dà già fa sentire che sta canzone quando tu passato sto guaglione sul tanto. Eccoci qui, caro Parenzo. Eccoci. La signora Bruna da Napoli, buonasera. Eccomi, buonasera. Buonasera, dica. Ti ha fatto sentire a Ticella di Benedetti, ma lo capisce che lei adesso ha trasformato questa Radio 24 in una succursale della Fininvest? Beh, insomma, non mi sembra gran problema. Fa finta di mettere in ridicolo il nostro caro presidente. Lei è un grandissimo leccaculo. Oh, che bello! Sono un infiltrato, un infiltrato. Lei è un leccaculo, ma della peggiore specie. E di chi in particolare? L'ho seguito per 2 anni e l'ho apprezzata. L'ho addirittura amata. E che è successo? E mi piaceva tanto, era il miglior conduttore. Adesso le brucia il popò perché ha paura di perdere il suo lavoro. E quindi si sta buttando adesso di nuovo nella Fininvest. Vada a Panorama, vada a Canale 5. Scusi un attimo, signora Bruna, dovrebbe essere il contrario in questo momento. Faccia una bella leccatina. Sì, d'accordo. Perché adesso è solo quello che sa fare. Benissimo, però denuncia, signora Bruna. Io la denuncio, Bruna. Sta dice. Lei mi denunci, faccia quello che vuole. No, io la denuncio, diverso. 70 anni, mi mandi in prigione. È una cosa gravissima che sta dicendo, di una gravità inaudita, cara Bruna. È gravissimo, lo ripeta se ha coraggio, è gravissimo. Lo ripeta. Non lo ripeto più, l'ho già detto. Perché sono arrivato io, per quello non lo ripeto. Fate quello che vi pare, andate al diavolo. No, ho capito, adesso è andato al diavolo, va bene, però ha detto io sono un, lo ripeta, diglielo anche tu, Parenzo. Lei è un leccapapò, leccaculo se vuole, più bello. Ecco, abbiamo sentito tutti, no? Abbiamo sentito, certo, tutti. Avete sentito, denunciatemi. Faremo acquisire subito i nastri, da tutte le procure d'Italia, tutte le procure dovranno acquisirlo. È una cosa di una gravità inaudita. È gravissimo quello che ha detto. Va bene, signora Bruna, dopo queste parole molto gentili la ringrazio, per carità. Buonanotte, veramente buonasera, ancora non è notte. Però comunque per me è già notte perché vado all'est, dopo che l'ho ascoltato voi mi è venuta la nausea. Buonanotte. Buonanotte signora, grazie. Buonasera, grazie. Franco da scatenare nella gente questi Franco da muori. Bari, buonasera, Franco da Bari. Buonasera, signor Franco. La signora Bruna ha un po' esagerato. Voi siete simpaticissimi. Ma noi siamo. La trasmissione è fantastica. Noi siamo sempre dalla parte della signora Bruna perché ci piacciono queste cose così che vengono dallo stomaco, che vengono dalle viscere, signor Franco. Dica. Da quello che volevo dire che secondo me il signor Bossi è un mascalzone. Perché? Ah, proprio anche lei così leggero, eh? Eh sì, scusi. È un mascalzone, perché che ha fatto questa volta il signor Bossi? Perché il signor Bossi è un senatore, un ministro della Repubblica e non si può rivolgere assolutamente con quei modi incivili a delle persone che stanno lavorando. Quindi no, ho capito, ma quello era sul palco. Il cantante, non mi ricordo. Pelagalli. Però scusi un attimo, Alessandro Pelagalli, sì, però caro signor Franco, adesso al di là delle questioni di antipatia o simpatia politiche, la questione è molto semplice. Il signor Pelagalli era su un palco di una festa della Lega, si è messo a cantare una canzone sull'Unità d'Italia e a un certo punto Bossi ha fatto il dito medio. Va benissimo, per carità, uno si può offendere, ma andare dai carabinieri! Scusi, abbiate pazienza, ma in che mondo siamo? Che ci rivolgiamo a delle persone col dito medio, ma in che mondo siamo? Ma noi dobbiamo prendere esempio da queste persone che ci dovrebbero rappresentare, cioè è indiscutibile, è incommentabile quello che ha fatto. Va bene, una cosa però gravissima, scusi, dice lei. Mi fa fare un paragone. Forse lui è un po' esagerato, diciamo, con la denuncia. mi poteva rispondere, diciamo, in altri modi, però dai. Lui ha cantato la canzone sbagliata, una canzone bellissima nel posto sbagliato. È un po' come se lei si mettesse a distribuire preservativi fuori dal Duomo di Milano dopo la messa. Va benissimo distribuire preservativi, ma non davanti al Duomo di Milano. Cioè, il contesto dove avvengono le cose è fondamentale. Forse era un po' fuori contesto quella canzone, che a me piace, ma rispetto ai leghisti era inevitabile che ci sarebbe stata una qualche reazione, o no? Va bene, abbiamo la borsa, no, anzi abbiamo il traffico, torniamo tra un attimo per gli ultimi minuti della zanzara di oggi, perché non della zanzara in assoluto, qui non finiamo mai. Eccoci qui, beh, da noi parlava del suo fidanzamento con Boccia, e poi con qualche derapata, con qualche puntata anche sulla crisi economica, e prima stava parlando... ha in onda nella signora De Girolamo della manovra, eccetera, eccetera. Adesso sta parlando Telese, il nostro amico Telese. Che dice addirittura Telese? Addirittura si lanciava una proposta che era, ricordiamo l'intervista di D'Alema, ma anche quella di Franceschini, basta che togliate Berlusconi e noi ci faremo carico, parole testuali di D'Alema, del futuro del Parlamento e della maggioranza. Adesso sembra essere tutto cambiato, la Bindi dice ha cambiato totalmente il quadro e dice cambiate tutti i ministri dell'attuale governo e noi siamo pronti a sostenere. Allora, fra questi due estremi, qual è la misura che lei stabilisce? Diciamo l'idea. Va bene, va bene. 800 24 00 24, andiamo a sentire Alberto dalla provincia di Brescia. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Prego. La prima, come mai ha deciso di trasformare la sua trasmissione da una trasmissione di approfondimento a una trasmissione di intrattenimento? Che noia mortale, una noia pazzesca questa domanda, una noia mortale, pazzesca, una domanda inutile. Comunque... La seconda è se ha avuto poi aumenti di audience... Ma non me ne frega niente, Alberto, è sbagliata la premessa, primo. Secondo, la conclusione dunque non ha senso se è sbagliata la premessa. Poi, secondo, passiamo alla seconda questione, che non interessa a nessuno, non interessa a nessuno di quelli che stanno ascoltando. La gente ascolta, se uno piace bene, se uno non piace no. Poi tutti i discorsi e approfondimenti, perché c'è un motivo del cambiamento o no? Ma sì, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando di cose già vecchie, passate, superate, Alberto. Todo cambia, il mondo cambia tutto, cambiamo anche noi. Ma sono tanti motivi, e poi non c'è una cosa decisa a tavolino, strategicamente, scientificamente. Poi è stata accompagnata anche da qualche riflessione, caro Alberto, e poi comunque non c'è questo cambiamento che lei intende. Qui si va alto e basso, ci si rotola nel fango e si cerca di fare qualche piccolissimo ragionamento, cercando soprattutto di non fare annoiare le persone che sono in macchina lì e si rompono, si fanno due marroni così. Caro Alberto, allora? Niente, erano queste qui le tue domande. Bene, la ringrazio. Ubaldo da Roma, buonasera. Carissimo Cruciani, buonasera, come sta? Non c'è male. Senta, ma povero Pelagalli, però insomma io sento già il tintinnio delle manette per l'amico Bossi. Insomma. Vabbè, insomma, adesso penso proprio di no. Comunque io ho incontrato il signor Parenzo, che io non conosco personalmente, ma insomma essendo un personaggio pubblico. Dove che attraversava lì di fronte via Novaro, sa, quella zona Prati. No? Beh zona... sì, dov'è la 7 insomma. Sono ancora qui, esatto. Certo. Allora? E lui ha attraversato con rosso e un automobilista gli ha fatto il dito medio. Lui però un po' se l'è presa, Sì. Giù, quando è successo, Parenzo? Quando è successo? Sì, anche con una certa calata romana, Terovino. Non mi sembra il tipo da reagire in questo modo, per quanto lo conosco. Perché non ho la patente. Quindi è no, ma infatti eri a piedi ieri, eri in mezzo alla strada. Ero a piedi. Non sta attento. Comunque, senta, le volevo dire una cosa seria, veramente. Che l'odore, perché lei ha chiesto a Borghezio, che se n'è andato via prematuramente. Che odore c'è a Roma, sì, che odore c'è. Sì, sì. Lo sai che odore c'è? C'è questo odore di matriciana, di carbonara. Non è che a Roma c'è l'odore di matriciana, di carbonara. No, di guanciale. Se lei va in giro nei ristoranti intorno alla Camera, al Parlamento, sì, vede tutti questi deputati leghisti che a quattro ganasce mangiano carbonara. Cioè non sono proprio schifati da Roma, dice lei. No, io infatti avrei voluto chiedere al caro Borghezio che cosa ne pensava della cotoletta di orso, che credo che lui abbia mangiato recentemente. No, non è, non, prima non è stata tagliata, poi alla fine la cotoletta, la costata. Allora era già morto, era già stato cucinato. No, però. Sì, però in Slovenia lo portavano dalla Slovenia. Era l'idea del signor Boso, altro moderato, l'idea del signor Boso. Capito? Comunque io la sento in grande forma, sì? E vorrei dirle che tutto sommato questa leggerezza che pervade la trasmissione in questa estate così calda non è poi così male, insomma, no? Ma la leggerezza pervade la nostra vita, per cui perché bisogna sottrarsi alla leggerezza? Non c'è solo la leggerezza, sì, certamente, sì, però si può parlare di argomenti pesanti come la borsa, come quelli di cui è espertissimo Parenzo, anche con un po' di, insomma, di verve. Ma sì, si può fare tutto, tutto si lei può è fare. D'accordo, insomma. Assolutamente. Senta, invece a proposito del Ministero del Turismo, si sì. Ricorda quello che ha detto lei un'oretta fa a proposito di Giglioli, no? Sì. Ma lì più che il Ministero del Turismo è il Mistero del Turismo, perché sono saltate più di due lettere, perché se lei ci fa caso, questo Ministero del Turismo, al di là della signora Brambilla, che è dire, uno stimabile membro del governo, scusate la parola, ma sì. Scusi che sto... Che sta facendo? Scusi, no, faccia con comodo, Ubaldo, qui. Cruciani, per carità, faccia con comodo. Lei, ma, scusi Cruciani, abbia pazienza, lei mi ha tenuto un'ora in attesa, mi ha chiuso il supermercato, e cioè, questo voglio dire, sono cose gravi, no? No, sono cose gravissime, faccia con comodo, per carità. Mi ha chiuso l'enoteca, mi ha beccato nel momento in cui stavo ritornando a casa, essendo romano e non avendo fatto nulla tutto il giorno, sì. Tornavo a casa dal mare con le valigie, lei capisce, latagne, cose del genere. No? Assolutamente, assolutamente, capiamo tutto, capiamo tutto. Appena ha fatto, appena si è accomodato, ha preso un caffè, tranquillo. Prenderò uno spritz. Dunque? No, volevo dirle, se lei fa caso ai prezzi, ad esempio, non so, di una località a caso, Lampedusa, sì. Nonostante adesso sia stata dichiarata Porto Franco, vedrà che sono prezzi esorbitanti. Ma lei c'ha l'auricolare adesso? Non sentiamo bene. No, non c'ho l'auricolare. Allora avvicini di più la... Viva voce, ha messo il viva voce, dica la verità. Ma Parenzo, non ho messo il viva voce, sono nelle scale, le scale rimbombano. Vabbè, allora? Se lei fa caso ai prezzi, vedrà che a Lampedusa sì. I costi sono molto più alti rispetto ad altre località. E dunque che vuol dire? Dell'Europa. Beh, che forse noi, se volessimo veramente fare una buona politica del turismo, dovremmo abbattere l'IVA che hanno le nostre aziende sul turismo e che purtroppo non consente ai nostri pacchetti turistici di essere competitivi con quelli degli altri paesi. Va bene, va sono bene. Sono tre governi, vabbè, comunque è una cosa noiosa. Però per carità, va bene, le cose noiose ci stanno, soprattutto quando bisogna concludere, così mi dà modo di interromperla. Grazie, Lucio della provincia di Livorno, 10 secondi, Lucio, che volevi? 10 secondi, vediamo se è bravo, 10 secondi. Pronto? 10 secondi. Pronto? 10 secondi. Bene, 10 secondi solamente. Allora, signor Cruciani, buonasera. Volevo invitarla in 10 secondi a invitarsi chi era il professor Gavino Pilio, detto Benzo Pilio, da confrontare con quelle porcate che dice Bossi. A domani, lo voglio conoscere, assolutamente lo voglio conoscere, lo voglio conoscere. Intanto botte tra, domani ne parleremo, Garimberti, Minzolini e pure Mazza, direttore di Rai 1. A domani. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.